Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera al professor Alfonso Botti. Buonasera. Alfonso Botti insegna storia contemporanea al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell'Università di Modena e Reggio Emilia e condirettore della rivista Spagna Contemporanea, e con lui parliamo proprio di Spagna perché Alfonso Botti ha curato il libro La Spagna di Rajoy, edito dal Mulino, un libro che raccoglie numerosi appunto scritti sul tema spagnolo, sul tema della crisi attuale della Spagna, una crisi che per molti aspetti è vicina a quella italiana, soprattutto sul fronte economico, anche se ha, come vedremo, ragioni diverse e prospettive diverse. Ma la Spagna, anche dal profilo politico, è vista come un esempio, soprattutto per l'alternanza, un'alternanza quasi perfetta che si è avuta negli ultimi vent'anni, negli ultimi trent'anni, dopo la fine del franchismo, con un'alternanza appunto tra i socialisti e i popolari. Allora, professor Botti, iniziamo proprio da questo: l'alternanza di governo in Spagna, un'alternanza tra due poli, da che cosa è dovuta questa alternanza, diciamo così, tranquilla in un certo senso? Beh, un'alternanza senz'altro tranquilla, e credo che il motivo principale sia da ricercare in una legge elettorale che premia, con circoscrizioni provinciali, che premia le forze politiche maggiori. Ma negli ultimi anni sono venute anche delle proteste, delle richieste di modifica di questa legge elettorale, perché basti pensare che mentre i popolari eleggono un deputato con poco più di 58.000 voti, i socialisti lo eleggono con poco più di 63.000 voti, Izquierda Unida ha bisogno di 152.000 voti e una nuova forza politica, Unión Progreso y Democracia, ce ne vogliono addirittura 228.000 voti, e quindi questo è un problema che io credo sia emerso anche nelle ultime elezioni dell'11 novembre 2011. Ecco, lei proprio nelle conclusioni afferma che è un sistema elettorale che non facilita l'affermazione di nuovi partiti politici, quindi in questo senso blocca un po' il sistema sui partiti tradizionali. Questo perché, lei lo accennava, è un sistema basato su circoscrizioni abbastanza piccole e quindi è proporzionale ma con un effetto notevolmente maggioritario. Sì, ed è stato concepito in questo modo originariamente nella fase di elaborazione della Carta Costituzionale, quando si sono gettate le fondamenta della nuova Spagna democratica, per consentire una rappresentanza dei partiti nazionalisti, fondamentalmente quello basco e quelli catalani, che altrimenti sarebbero stati penalizzati. Ecco, quindi in questo senso però è una legge elettorale che è servita un po' a dare una rappresentanza a queste regioni, ma comunque a delineare una maggioranza abbastanza stabile, direi. Solo forse l'ultima, mi corregga se sbaglio, nell'ultima volta di Zapatero ci sono state elezioni anticipate. Sì, no, ce n'è stata anche un'altra volta, di qualche mese l'aveva anticipate Felipe González, però no, certamente dal punto di vista della governabilità il sistema politico spagnolo ha dimostrato di funzionare. I problemi sono altri, diciamo, perché la Spagna sta conoscendo, oltre a una grave crisi economica, anche una grande crisi politica. Ecco, una crisi politica e sociale, lei lo accenna nei suoi capitoli e soprattutto nelle conclusioni, una crisi politica e sociale appunto che deriva in parte dalla crisi economica, ma che ha anche degli aspetti molto, molto particolari. Però dall'altra parte c'è anche il fatto che la Spagna ha superato magari provvisoriamente, però uno dei problemi maggiori che ha vissuto del post-franchismo, cioè il terrorismo e il separatismo di alcune realtà. È riuscita in qualche modo a mettere insieme queste realtà e a superare questi contrasti interni la Spagna, professor Botti? Beh, certamente la cessazione della lotta armata dell'organizzazione terrorista basca ETA è un fatto estremamente positivo, che io credo che in Italia sia stata sottolineata non come andava fatto, perché veramente ha significato una svolta dopo anni di attentati e dopo centinaia di vittime innocenti. Adesso siamo in una fase di meditazione da parte del nazionalismo basco, mentre è la Catalogna che spinge per arrivare ad un referendum che dia la possibilità ai cittadini catalani di esprimersi sul futuro della Catalogna, partendo dal principio che la Catalogna la sentono, la vivono come una nazione. Quindi da questo punto di vista ci sono un segnale certamente positivo per quello che riguarda i Paesi Baschi, segni di preoccupazione invece per quanto riguarda la spinta indipendentista catalana. Ecco, dal profilo però sociale il problema maggiore resta ancora la crisi economica, la disoccupazione molto alta. Ah, senza dubbio. Un modello economico che appare incapace di affrontare i problemi che si aprono peraltro anche all'Italia in questo senso. Secondo lei quali sono le vicinanze maggiori che ci possono essere tra la realtà, direi, socio-economico italiana e quella spagnola? Beh, abbiamo, sia l'Italia sia la Spagna hanno degli alti tassi di disoccupazione, ma la Spagna da questo punto di vista ha dei tassi molto più alti. Nel primo trimestre del 2013 i disoccupati sono arrivati al 27%, 6.200.000. Pensi che nel 2007 la percentuale era, quindi prima che scoppiasse la crisi, il tasso di disoccupazione era del 7-8%. Pensi che adesso la disoccupazione giovanile è del 57%. Quindi diciamo, queste cifre raffigurano una situazione che per la Spagna si configura più grave di quella italiana, soprattutto per un altro motivo, che è quello degli sfratti per morosità, che è una piaga che in Italia non è così rilevante come nel caso spagnolo. Dal 2008 ad oggi sono stati 415.000 sfratti per morosità, e quindi una cifra enorme. Certo, una cifra che dimostra anche la difficoltà del settore immobiliare, lei sottolinea nelle conclusioni come proprio il modello economico sia troppo dipendente dal settore immobiliare e dal turismo, che un sistema industriale caratterizzato da bassi indici di produttività, scarsa capacità di esportazione, scarsa specializzazione della forza lavoro, insufficienti investimenti nella ricerca e nell'innovazione, tardiva e inadeguata attenzione al problema energetico e alle fonti energetiche alternative rinnovabili. Quindi, ecco, sotto questo profilo forse l'Italia è messa un po' meglio. Certo, cominciando dall'apparato industriale, che senz'altro non è comparabile il nostro con quello spagnolo. Ecco, quindi da un certo profilo potremmo copiare il sistema elettorale spagnolo, potremmo in un certo senso anche tentare di mantenere appunto la barra dritta sul fronte industriale. L'Italia dalla Spagna può avere soprattutto come esempio quello del sistema politico, magari non la monarchia. Anche perché mai come in questo periodo è in crisi anche l'istituto monarchico, per il safari in dolce compagnia del sovrano dell'anno scorso, per lo scandalo economico che ha coinvolto il genero di Juan Carlos Urdangarin, per l'eredità dei conti svizzera, i conti svizzera che aveva ereditato, che è stato scoperto alcune settimane fa. Diciamo, l'istituto monarchico è, come mai era successo prima, ripeto, dalla transizione, sottoposto a critiche. L'ex direttore della Verté, che è monarchico, ed era direttore di un giornale monarchico, già da tempo sta suggerendo l'abdicazione a favore del principe Felipe. Quindi c'è qualche problema anche sotto quel profilo. Ecco, sì. Tornando all'attualità, il governo, il Partito Popolare di Mariano Rajoy, che è appunto al governo da qualche mese, quali sono i motivi di novità che ha portato nella sua politica, o possiamo dire che è stata un po' una politica costretta dalle circostanze, una politica che in fondo aveva tentato di fare lo stesso Zapatero negli ultimi mesi? Sì, io credo che sia, come dire, in continuità con l'ultima stagione del secondo governo di Zapatero, è una politica di tagli, lacrime e sangue, in gran parte imposta dalle istituzioni europee. La vera forza del Partito Popolare è la crisi del Partito Socialista, che è una crisi di leadership, che è una crisi di proposte, che nelle elezioni del novembre del 2011 è uscito ridotto ai minimi termini, e non si vedono segnali di ripresa in campo socialista. Ecco, quello che lei nota, e possiamo tornare da dove siamo partiti, è che in fondo l'alternanza tra i governi spagnoli è dovuta più all'inefficienza e all'incapacità di mantenere il consenso dei governi in carica che non dalle proposte veramente innovative dei partiti che si oppongono ai governi in carica. Sì, questa è una constatazione che mi sono sentito di fare, quindi di scrivere nel testo che lei stava segnalando, perché se noi andiamo a guardare tutte le volte che c'è stata alternanza dal 78 in avanti, è stato sempre per logoramento e per qualcosa che diciamo, era stato fatto male da parte del partito del governo piuttosto che per la straordinaria proposta, capacità di proporre cose nuove, alternative dalle forze che erano all'opposizione. Ecco, non si è mai parlato in Spagna come ipotesi di una grande coalizione, di queste larghe intese che in Italia hanno avuto successo, almeno in questa prima parte? Sì, no, non se n'è mai parlato, perché intanto il sistema elettorale, quindi politico, lascia sempre una maggioranza, produce sempre una maggioranza, e anche quando la maggioranza è minima viene accettata tranquillamente dal partito sconfitto, e quindi non se ne è mai parlato. L'ha proposto, per la verità, l'ha proposto il Partito Popolare quando è scoppiata la crisi e di fronte alla incapacità di Zapatero di far fronte alla grave situazione economica, il Partito Popolare l'aveva proposto, ma è stato respinto dal Partito Socialista. E quindi il governo di Mariano Rajoy adesso ha in mano la Spagna. Facciamo gli auguri, perché comunque i problemi spagnoli sono certamente gravi. La Spagna di Rajoy è il titolo del libro curato da Alfonso Botti e Bonnie Field. Alfonso Botti, con cui abbiamo parlato e che ringraziamo, insegna storia contemporanea al Dipartimento di Studi Linguistici dell'Università di Modena e Reggio ed è condirettore della rivista Spagna Contemporanea. Bonnie Field insegna al Dipartimento di Global Studies dell'Università di Bentley nel Massachusetts. Il libro La Spagna di Rajoy, edito dal Mulino, sono 220 pagine per 19 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buon sabato sera a tutti.